Sposta questi anni neri, ora lasciati guardare. Sono notti che non dormo e non sono le zanzare. Ho chiuso luci intermittenti come stelle in un forziere. Sono tutti tentativi per dirti che ti voglio bene. E non c'è definizione se ogni volta è una prima volta. E tutto quello che mi importa è che di te mi importa. Il mio amore è differente, non ha bisogno di per sempre. È la somma dei difetti, non è quello che ti aspetti. E che siamo ancora qui è l'unica certezza che ho. Il mio amore è differente. Gli oroscopi raccontano, non siamo fatti per cambiare. Ma queste mani non si lasciano, non ci lasciano mai andare. Riconoscersi fra tanti, la purezza dei tuoi intenti. In questi giorni disumani, se sorridi e stringi i denti. E tutto quello che importa è rifarlo ancora un'altra volta. Il mio amore è differente, non ha bisogno di per sempre. È la somma dei difetti, tutto quello che ci metti. E che siamo ancora qui è l'unica fortezza che ho. Sogno di per sempre, è la somma dei difetti, tutto quello che vorresti. Noi che siamo ancora qui, è l'unica certezza che ho. Il mio amore differente si distingue in mezzo a niente, ed è vero fin quando ce n'è. Puoi restare e fidarti di me.